Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Fai gli ultimi tornanti, poi passi il paravalanghe e poi la strettoia, dove c'è il negozio di alimentari e l'edicola del paese vecchio. Fuori dal bar c'è un anziano operaio degli impianti di risalita. Indossa una vecchia giacca da maestro di sci. È quella di suo figlio. Ha in mano il sacchetto del pane, il giornale piegato sotto il braccio e ti guarda passare. È lì fermo immobile e tu stai per togliere la mano dal volante per salutarlo. Ti ricordi di lui? Ti metteva il piattello dello ski lift sotto il sedere quando venivi qui per le gare. Categoria cuccioli. Quand'era? 20 anni fa. Forse di più. Mi chiamo Emilio Previtali, sono di Bergamo, sono uno sciatore, sono un maestro di sci, sono appassionato di neve e di neve fresca in particolare e sono papà di 3 bambini. In tutte le cose, che ci piace o non ci piace fare, ma in particolar modo nelle cose che ci piace particolarmente fare, anche in quelle, c'è sempre qualcosa che non ci piace. Cioè, la puntata di oggi è dedicata allo sci, e ringrazio Emilio per aver scritto un racconto molto bello, molto dettagliato, che fa capire che come ci si possa godere una cosa così semplice come una discesa lungo la neve fra le montagne, parlando banalmente di sci. Però quando ho letto questo racconto, la prima cosa che ho pensato è stata: anche a me piace tantissimo sciare, lo faccio da sempre, però ci sono delle cose nello sci che detesto e per cui comunque devo fare fatica a farle. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. C'è però anche un profilo Facebook, è il solito, che è Matteo Caccia, io sono qui, e se anche voi avete questo problema con lo sci, che vi piace farlo, ma c'è qualcosa in quello sport, e sappiamo bene ce ne possono essere mille di cose che non ti piace fare per andare a sciare, perché sono tante le piccole cose da fare, le accortezze da avere, potete scriverlo lì e magari postare anche una foto sugli sci. Ormai niente, ormai siamo partiti con questa roba delle foto, devo dire. È una cosa che piace molto a Bonini e me l'ha un po' attaccata. Adesso piace un po' anche a me. Ieri biciclette, via foto di biciclette. Oggi sci, via foto di sci. Matteo Caccia, io sono qui, il profilo Facebook del programma. Mentre quello di cui si parla oggi sono proprio le cose che, come Giuliana ad esempio, nell'andare a fare shopping odio camminare molto e discutere con le commesse. Francesco, fare shopping, pure lui, il lato negativo è che spendo dei soldi, questo però diciamo è abbastanza intrinseco in quell'attività. Amo andare dai miei genitori per averli almeno una mezz'ora quando posso, e odio nel vedere i miei che con me presente litigano volutamente per banalità, nella speranza che io dia ragione l'uno all'uno o all'altra. Luca, mi piace andare in longboard. Che è? Cos'è il longboard? Qua dice uno skate per discesone. Uno skate. Ah, ma sono i. Ma uno skateboard lungo, sì, ma non sono quelli snodati, però. No, è un'altra cosa ancora. Mi piace andare in longboard, ti fai sempre male, rovini la tavola che ami sbattendola contro i muri, devi risalire la montagna a piedi. Però che spasso. Ah, perché scendi in discesa, cioè, e scendi sull'asfalto, credo. Vabbè, Luca, se qualcuno sa cos'è il longboard, grazie. 349-238-6666. Maurizio, l'hai già scritto tu, devo alzarmi presto per andare a snowboardare. Va bene, e questo è una. Poi ce n'era uno che era proprio giusto per la puntata di oggi. Ecco qua, a me piace sciare in neve fresca. Ogni volta che arrivo in fondo a una discesa, c'è sempre qualcuno che deve per forza dire qualcosa. Deve dire com'era, se era bello, se era molto bello, se era bellissimo, se era meglio o peggio dell'altra volta. Io invece vorrei non dire niente, perché non c'è proprio niente da dire. E che nessuno dicesse niente. Vorrei il silenzio, fermarmi, girarmi e vedere la mia traccia per qualche secondo e poi spingermi via con i bastoni, magari rifarmi un altro giro, e invece devo sempre sentire tutte quelle parole. Emilio, ma questo è lo stesso, Emilio. Ma non vale però scrivere racconti e poi postare anche su Facebook, è lo stesso Emilio di oggi. 349-238-6666, ancora un altro? Giulia, cucinare e poi sopportare per un po' gli odoracci che qualche pietanza lascia per la casa. Perché qualcuno ha scritto che è impossibile, se una cosa ti piace non è possibile ci siano dei dettagli che non ti piacciono. Credo che non sia assolutamente così, è un po' come la storia del fare un sacrificio: se ti pesa fare un sacrificio allora non vale la pena farlo. Non so se avete capito, non so se mi sono spiegato, non mi sono spiegato Bonini. Quando vabbè, ve lo spiego dopo. 349-238-6666, adesso si scende sulla neve con Emilio. Prima di Natale o prima delle vacanze, prima di domani, prima di sera, sempre prima, comunque prima di qualcosa. Sarà che essere in anticipo ci rassicura, o sarà che lo sentiamo dire da sempre che è meglio portarsi avanti, ma davanti a cosa poi? Gennaio è il mese che ti piace di più. Metà gennaio, per l'esattezza. Le vacanze di Natale, Capodanno e l'Epifania te le sei tolte di torno. Ti sei levato dai piedi le feste, le cene. Anche le cene con gli amici che avrebbero voluto vederti prima di Natale, ma che proprio non ce l'hanno fatta. È tutto finito. È un sabato mattina di fine gennaio. Finalmente puoi andare a sciare tranquillo e non sentirti in colpa perché dovresti essere da qualche altra parte, chissà dove, tipo a trovare una zia, o accompagnare tua madre a comprare delle cose, o lavare la macchina, che tuo padre ci tiene. Puoi alzarti un po' più tardi perché tanto in autostrada non c'è nessuno e la coda agli impianti, quella che c'era il 2 gennaio, oggi non c'è più. Puoi scendere in garage e infilare gli sci in macchina, non c'è bisogno di metterli sul tetto perché non hai nessun bambino, fidanzata o moglie o amico da trasportare. E poi puoi partire. Di mestiere scio, cioè sono uno sciatore, sono in particolare uno sciatore alpinista, uno che sale le montagne e poi le scende. Il posto dove mi piace stare è Foppolo, è una piccola stazione sulle prealpi orobiche, sulle Alpi, e poi scio un po' in tutto il mondo. Una settimana fa ero in Giappone a sciare. Vai piano su per la strada di montagna, intanto ascolti un programma su Radio 24 in cui si fanno delle domande che sembrano già una risposta e si danno delle risposte che escludono altre domande. È tutto rassicurante. Fai gli ultimi tornanti, poi passi il paravalanghe e poi la strettoia dove c'è il negozio di alimentari e l'edicola, quella del paese vecchio. Fuori dal bar c'è un anziano operaio degli impianti di risalita, indossa una giacca da maestro di sci e quella di suo figlio. Ha in mano il pane, il giornale e ti guarda passare. È lì fermo immobile. Tu stai per togliere la mano dal volante per salutarlo. Ti ricordi di lui? Ti metteva il piattello dello ski lift sotto il sedere quando venivi qui per le gare. Categoria cuccioli. Quando era? 20 anni fa? Forse di più. Lui ti guarda in silenzio con quegli occhi acquosi. Allora tu passi. Vai su. Trattieni il gesto di salutarlo con la mano. Ho fatto tante gare, ma i ricordi più belli che ho sono legati alla neve fresca, ai momenti in cui mio papà mi ha insegnato a fare le curve invertendo gli sci nel modo più semplice, più basico possibile, e mi ha detto: con questo tipo di curva qui puoi sempre tornare a casa. È la curva più stupida e più banale ed è la curva più importante per uno sciatore, secondo me. Arrivi al parcheggio, c'è poca gente, con Natale non c'è nemmeno paragone. Ti metti gli scarponi. Proprio davanti alle scale per salire alla partenza degli impianti c'è uno come te, è lì per sciare, solo che è arrivato tardi. Sta scaricando da una macchina di lusso la moglie impellicciata, il passeggino, una borsa termica, un'altra borsa piccola, una borsettina e un bambino piccolo che dorme. Il tizio ha la faccia di uno che ha fretta. Indossa la tuta da gigante del tuo vecchio sci club. E sopra quei pantaloncini ridicoli a mezza coscia. È pronto per il suo allenamento del pomeriggio. Con i master, si capisce. Gli passi davanti e lo saluti. Lo conosci. Lui ti guarda e capisci che si ricorda di te. È tanto che non vi vedete. Vi siete persi di vista. Arrivi al bar che c'è a fianco della partenza della seggiovia. È semideserto. Lasci cadere gli sci a terra, di piatto. Le pelli di foca sono già montate. Chiudi gli attacchi e cominci a salire. Cammini piano. Vicino a te sfreccia un bambino piccolo con il bob, un altro lo segue correndo in discesa con il berretto un po' di traverso e i jeans già bagnati. Guardi in alto il fuoripista che si vede già tutto tracciato. Prendi una traccia a destra in salita e sparisci nel bosco. C'è silenzio, neve fresca poca, ma non importa. Casomai per scendere ti farai qualche curva a bordo pista. Quando sarai su, in cima, si vedrà. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. I need a friend, oh I need a friend to make me happy. Not stand here on my own. Il racconto di Emilio mi è piaciuto molto, e non solo perché è scritto bene, ma anche perché parla di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, che è riuscire a saltare le cene di Natale con gli amici e i parenti. Che, ok, quello, insomma, è una cosa che credo accomuni molti. E poi, ovviamente, perché parla di sci, che forse non accomuna tutti, però quei pochi adepti che sono all'ascolto sono sicuro che hanno provato la mia stessa sensazione leggendolo. Sciare da soli, sentire il silenzio della montagna rotto solo dal respiro che hai, dal rumore del vento o da quel preciso rumore che fanno gli sci sulla neve, è il massimo della vita. È veramente una sensazione unica, che ha a che fare non solo con il gesto in sé, ma soprattutto con quello che succede prima. È una questione di attese, preparazioni lunghissime, che poi si concentra ed esplode in qualcosa che ti soddisfa al massimo. Oggi ho una gara, slalom speciale alla Twil. Ho 12 anni e corro per lo Sci Club Mera. Per andare alla Twil a sciare ci si va con il pulmino dello Sci Club. L'appuntamento è alle 6 del mattino. Ottavio, il nostro maestro, ci viene a prendere in piazza e poi si va su tutti insieme. Siamo una decina di bambini tra gli 8 e i 15 anni, in un vecchio furgone piuttosto puzzolente e malandato. Siamo tutti vestiti con la divisa dello Sci Club, una brutta tuta verde marcio. È buio e fa un freddo incredibile. Anche se mancano ore alla gara, indossiamo già tutti i guanti, il cappello e la maschera da sci. I nostri genitori ci hanno accompagnati in piazza e adesso ci salutano dalla strada, mentre noi ci allontaniamo sul furgone. Mio padre mi ha messo una tavoletta di cioccolato nella tasca alta della tuta. Mi ha detto di mangiarlo un po' prima della gara, che così mi darà forza. Spero non si sciolga nella tasca come l'altra volta. Durante il tragitto è tutto un continuo darsi pugni sulla gamba. Si chiama vecchia. È il nostro sport preferito, ovviamente dopo lo sci. Funziona così: devi tirare una botta pazzesca sulla coscia del tuo amico di fianco a te. Il trucco è tirare un po' fuori la nocca del dito medio e sperare di beccargli il nervo. Fa un male pazzesco. Alla 327esima vecchia, Ottavio si gira e ci zittisce tutti con un urlo valdostano, che è peggio di un urlo beduino. Tra poco c'è la gara, non possiamo arrivare deconcentrati. Ci zittiamo tutti, per almeno 4-5 secondi. Il piazzale della funivia di La Twil è in ombra. La temperatura alle 7 del mattino è di meno 6 gradi. Dopo essersi messi gli scarponi, imbracciati gli sci e tirateci altre 1000 vecchie, arriviamo finalmente sulle piste. Raggiungiamo quella dove si svolgerà la gara ed è lì che si consuma la tragedia. È il momento di fare ricognizione. Vuol dire controllare il tracciato. Passi porta per porta con il tuo maestro che ti spiega come devi prendere quella determinata curva, come attaccare o mollare quel preciso pezzo di tracciato. Ma siccome l'impianto in questione è ancora chiuso, Ottavio ci dice che dobbiamo farla dal basso verso l'alto. Cioè, ci dobbiamo fare almeno un'ora di scaletta al freddo e al gelo, nelle mani di un maestro che sembra un misto perfetto tra Asterix e Obelix, e che quando facciamo troppo casino ci tira delle bacchettate che ogni tanto ti rimane pure il segno. E noi siamo tutti concentrati come possono essere concentrati 10 ragazzini vestiti di verde marcio su degli sci molto più lunghi di loro. E poi c'è la gara. Qualcuno va forte, qualcuno esce, qualcuno cade. Ma alla fine importa pochi. La parte bella, quella c'è già stata. I found a couple of stars in the sky, the rest all being outshined by the light of this town. So I look down at the ground and see the stars in the sidewalk, but all it does is get me down. I will still be okay. Faccio il compositore, è bellissimo sentire nell'aria le note, ma devi fisicamente scriverle sulla carta e lì saranno per sempre, ed è la cosa che non mi piace. Giorgio, 349-238-6666, in estate con la moto si soffre terribilmente il caldo sotto la tuta di pelle, ma la sicurezza vale il sacrificio. Ah, per non parlare di come ti guarda la gente. Alessandro da Pordenone, però vabbè, se sei vestito con una tuta da moto si capisce cosa ci fai. E poi Roberto mi scrive: Belin, questa storia l'ho già sentita ieri, è un déjà vu stile Matrix o me lo sono sognato? Allora, Roberto, ti spiego cosa succede in questo programma, forse perché l'hai sentito ieri per la prima volta. Alla fine, proprio alla fine fine, attorno alle 16.43-44, io semplicemente do un assaggino della puntata che andrà il giorno dopo. Quindi ieri tu avrai sentito la parte finale del programma di ieri, che era l'intro del programma di oggi. Adesso non posso svegliarvi proprio tutti i segreti del programma, se no non vi piace più. Come se vi dicessero qual è il trucco dell'illusionista. Però, in sostanza, se hai sentito un pezzo ieri, era perché ieri, in chiusura, lancio il programma di oggi. Ma chi se ne frega di come fatto questo programma? Andiamo invece a parlare con uno che nella vita fa una cosa che credo molti vorrebbero fare, perché la domanda: cosa fai di mestiere? Emilio risponde: scio. Pronto Emilio? Pronti. Ciao, come stai? Bene, benissimo, grazie. Grazie per essere qui innanzitutto, Emilio. Grazie a voi. Dove ti trovi in questo momento? A casa mia, a Scalzo Rosciate, vicino a Bergamo. Scusami, il paese? Scalzo Rosciate. Scalzo Rosciate? Sì. Ed è vicino a Foppolo? Non è tanto vicino, ci vuole un'ora e un quarto di macchina. Cioè, tu non sei un uomo di montagna, per dirla proprio brutta. Ma io sono uno di montagna, nel senso che sto tanto in montagna, vivo in città. E quando, ogni quanto ci vai in montagna? Ci vado più o meno tutti i giorni quando sono qui, e quando vado lontano ci sto in montagna. Cioè, nel senso che abitualmente se tu sei a casa non lavori, giusto? Cioè tu lavori sulle piste? Un po' lavoro sulle piste, poi un po' lavoro al computer, però cerco di stare il più possibile sulla neve, insomma. Perché io ho dato un occhio al tuo sito, possiamo darlo, no, al tuo sito? Certo. Ok, emiliopravitali.com banalmente, che è il tuo nome e cognome. Complimenti per la fantasia, ma avrei fatto lo stesso, cioè matteocaccia.com se avessi fatto il tuo mestiere. E tu fai, dicevi che sei appena tornato dal Giappone, ma poi ho visto che sei in partenza per il Canada adesso, giusto? Sì. E poi per l'Alaska? Sì, esatto. Cioè, in sostanza tu porti della gente a fare freeride, me lo spieghi un po' meglio tu così? Diciamo che il mio lavoro è fatto per una parte dell'accompagnare delle altre persone a sciare, perché una parte del mio lavoro è quella di fare il maestro di sci, uh-huh. E un'altra parte invece è farmi dei viaggi per conto mio, andare a conoscere delle montagne, a vedere dei posti dove si può sciare, sciarci sopra, e quando torno a casa scrivere un po' dei racconti, delle cose che ho fatto, insomma è un po' il modo per alimentare il prossimo viaggio. Certo, però a meno che tu non sia molto ricco di famiglia, diciamo, quello con cui campi è il maestro di sci, giusto? Sì, è l'insieme di tutto. Spiegarti cosa faccio di lavoro ci vorrebbero 3-4 giorni, poi forse non sarei capace neanche di spiegartelo bene. È in parte, buona parte, il lavoro di maestro di sci. Vabbè, dimmi tipo, domani lavori? Domani lavoro, sì, lavoro in Austria. E cosa fai? Vado da un mio amico che fa una cascata di ghiaccio e andiamo lì a farla insieme, insomma, arrampicare. E sto fine settimana cosa fai? Fai lezione? Sì, torno qui a Foppolo. Senti, c'è una filosofia che io ho curiosato un pochettino nella tua vita, però lo faccio quasi sempre, e ho visto nei video che ci sono sul tuo sito, ho preso proprio un pezzo in cui tu dici una cosa che veramente mi sembra una filosofia di vita. Sentila qua. Devo lasciare scorrere gli sci e tenere il peso su tutti e due gli sci, e poi devo pensare che sono bravo. Se penso che non sono tanto bravo, non mi vengono le curve. Devo pensare che sono bravo e pensare che lo sci mi porta fuori. Cioè, devo pensare che sono bravo e le cose funzionano. Secondo me sì, se già tu pensi che non sei bravo è impossibile. Se non ci credi tu, non può crederci neanche il tuo paio di sci, il tuo bastone e la neve che ti tiene su. No, ma questo però guarda, mi sembra in generale, anche quando mi capita di fare un parcheggio, perdonami la banalità, quando faccio un parcheggio all'americana, quello che devi entrare di culo in macchina, sì. Se penso che sono bravo mi riesce, altrimenti ci metto 40 manovre. Certo, beh, secondo me è così che funziona. Senti, invece, un'altra cosa prima di salutarti, tu a un certo punto ci hai detto, negli insert che ci sono all'interno del racconto, che tuo padre ti ha insegnato una curva che ti dice se devi tornare a casa questa curva ti porta a casa. Ma che curva è? In realtà non è una vera curva, è una manovra che si chiama dietro front. Praticamente tu percorri il pendio in diagonale e poi ad un certo punto, se la neve è brutta, se sei in difficoltà, se non ci vedi, se hai paura, qualsiasi cosa ti mette in difficoltà, tu sollevi il piede, fai una specie di passo invertendo lo sci e poi fai con l'altro piede un passo e riporti gli sci paralleli e hai cambiato direzione. Guarda, non ho capito moltissimo, però io me lo vado a vedere sul tuo sito e chiunque voglia andarci, emiliopravitali.com. Emilio, ti ringrazio molto per il racconto e per la tua storia e buon viaggio. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao. Adesso la borsa. Aspetta, no. Michela dice: a me non piace quando in piscina a bordo vasca è ora di entrare in acqua. Che però sta tutto lì. Voi siete qui. Con oggi chiudiamo e ringraziamo anche il secondo e terzo anno del corso di illustrazione dello IAD di Milano. Chiudiamo oggi questo joint venture. Operazione? Questo accordo, questa roba che diciamo gli abbiamo dato i racconti, loro ci hanno dato dei disegni. Lo chiudiamo con l'illustrazione di Teresa Niro, che ringraziamo, anche se mi domando, Teresa, forse non era la puntata di oggi quella che tu hai illustrato, però ci piace raccontare lo stesso perché ci sono due volti di donna che si baciano e una striscia nera sugli occhi. Non può essere, dai ragazzi, è un altro racconto per forza. Comunque grazie a Teresa, andate a vederlo sempre sul sito radio24.it, la pagina di Voi Siete Qui, e grazie allo IAD di Milano. In compenso andate a vedervi la foto di Emilio, che è stata scattata in Giappone, credo qualche settimana fa, quando si trovava là a sciare. È molto bella, e anche se lui ha su la maschera da sci, alla faccia di uno che in qualche modo si diverte. 349-238-6666. Per caccia, mi scrive Manuela, che sono io, quindi non, magari mettila per Garanzini o per Barisoni, non si sa mai. Per caccia, quel passo, cioè quel passo lì, quella curva particolare di cui parlava Emilio, da noi a Cuneo si chiama Gucia o Gucia. Ma Gucia se era a Catania, a Cuneo è Gucia. Grazie Manuela, però non è che mi spieghi meglio come sia. Sono un musicista, adoro suonare nei locali, ma detesto dover montare e smontare tutta la roba sul palco. Enrico, non sopporto quando mi pestano le code degli sci, specialmente quando sono nuovi. Francesco, effettivamente è una roba abbastanza fastidiosa, però se sei allo skiff è un po' complicato evitarlo. Mettersi gli scarponi dopo averli scordati in auto la sera prima, sapendo che la notte la temperatura è arrivata a meno 15. E poi ancora, il freddo intenso, fastidioso. No, il freddo alle mani, ah ok. Intenso, fastidioso e invincibile. Tutto freddo, e quando sali sulla seggiovia credi che non potrai farcela, ma quando scendi, o se ne è talpa la pena. Questo è un problema del T9. O se ne è valsa la pena. Perdonami Cristina. E a proposito di freddo e di sci, quando abbiamo letto questa puntata, a me è venuto in mente, nella mia scarsa fantasia, l'inizio di un romanzo che ha avuto un enorme successo 2 anni fa, di più credo, 3 anni fa, che è un romanzo che si chiama La solitudine dei numeri primi, che ha un, secondo me, uno splendido inizio. Poi vabbè, si può dire ciò che si vuole sui romanzi che hanno molto successo, che vendono oltre 1 milione di copie, vale tutto. Però l'inizio racconta proprio di questa cosa, racconta di questa ragazzina che va a sciare, ci va controvoglia, ha credo 14 anni, 15 anni, qualcosa del genere, non ricordo, forse di meno, forse 12. Va a sciare controvoglia ed è una cosa che secondo me a tutti i ragazzini è successa, a tutti quelli che sono andati a sciare da piccoli: ti devi svegliare presto, devi metterti la calzamaglia, devi fare colazione e la colazione non va giù. Poi in realtà la giornata parte, a lei la giornata non parte particolarmente bene e direi che finisce abbastanza male. Alice della Rocca odiava la scuola di sci. Odiava la sveglia alle 7:30 del mattino anche nelle vacanze di Natale. E suo padre che a colazione la fissava e sotto il tavolo faceva ballare la gamba nervosamente come a dire su, sbrigati. Odiava la calzamaglia di lana che le pungeva sulle cosce, le moffole che non le lasciavano muovere le dita, il casco che le schiacciava le guance e puntava con il ferro sulla mandibola. E poi quegli scarponi sempre troppo stretti che la facevano camminare come un gorilla. A fine stagione lo sci club ti regalava una spilla con delle stelline in rilievo. Ogni anno una stellina in più, da quando avevi 4 anni ed eri abbastanza alta per infilare tra le gambe il piattello dello ski lift, a quando ne compivi 9 e il piattello riusciva ad acchiappartelo da sola. 3 stelle d'argento e poi altre 3 d'oro. Ogni anno una spilla per dirti che eri un po' più brava, un po' più vicina alle gare agonistiche che terrorizzavano Alice. Ci pensava già allora che di stelline ne aveva solo 3. Ogni mattina la stessa storia. Dopo colazione si chiudeva nel bagno e spingeva per svuotarsi di tutta la pipì. Rimaneva sul water a contrarre gli addominali finché dallo sforzo non le prendeva una fitta alla testa e le sembrava che gli occhi le sgusciassero dalle orbite come la polpa dell'uva fragola se schiacci l'acino. Apriva al massimo il rubinetto dell'acqua perché suo padre non sentisse i rumori. Spingeva stringendo i pugni per spremere anche l'ultima goccia. Ma tanto non serviva a niente. Arrivata in fondo alla prima seggiovia, le scappava sempre così forte che era costretta a sganciarsi gli sci, a covacciarsi nella neve fresca, un po' in disparte, a fingere di stringersi gli scarponi e intanto fare la pipì. Ammucchiava un po' di neve addosso alle gambe tenute strette e si pisciava addosso. Dentro la tuta, nella calzamaglia, mentre tutti i compagni la guardavano ed Eric, il maestro, diceva: come sempre, aspettiamo Alice. A scherma, scrive Laura, voi siete qui @radio24.it, se probabilmente riuscissi a vedere meglio lo schermo. Vado a scherma e capisco solo quando inizio a tirare che quella sera lì non ho punta. Cosa vuol dire punta? cioè non ho la punta della sciabola. Vabbè, non appunta e perdo continuamente la misura. Insomma, non è decisamente serata. Tanto valeva restare a casa, solo che non lo so fino a quel momento esatto. Ciao e grazie delle bellissime storie. Grazie a te. 3-4 ore. Ho spostato il microfono perché veramente non ci vedo più niente. Qualcuno mi scrive: il moscato di Scanzo è rinomato. Scanzo è il paese di Emilio. E poi Anna manda invece un messaggio che è proprio molto preciso, perché ci sono 4 cose che lei ama fare e in queste 4 cose ci sono 4 cose terribili. Allora: A, amo scrivere. B, amo giocare con la mia gatta. C, guardare la TV. D, guardare infimi film horror al cinema. E scrive anche: sembra un'attività di poca fatica e massimo risultato, ma ci sono vieppiù risultati negativi. A parte che, Anna, guarda, hai scritto vieppiù, credo fosse dall'84 che non lo sentivo, quindi già grazie. A, per lo scrivere, mostruosi dolori cervicali dopo ore passate al computer a digitare, a cancellare, cancellare, digitare. B, giocare con la gatta. Pelo bianco incollato ai vestiti, generalmente neri. C, guardare la TV, spaventosa nevrosi da zapping. A volte è tutto bello e non so cosa scegliere. A volte fa tutto schifo e non so cosa scegliere. E ultimo, D, che era guardare film horror al cinema. Gli insulti degli amici quando si rendono conto che film horror non è il nuovo Shining. Però è anche vero che trovare il nuovo Shining è sempre complicato. 349-238-6666. Francesca: amo il cibo piccante. È ambrosia divina. Superi il primo istante e tutto ha un sapore più forte, profumato, proibito. Cosa fa male? Veramente male. Il giorno dopo. Ho avuto questa esperienza quest'inverno durante le vacanze di Natale con, come si chiama, la roba calabrese, l'anduia, con l'anduia. Mauro ha portato un pezzo di anduia così e poi ci ha fatto gli auguri per il nuovo anno. Grazie a Federico Bernocchi, grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina e a Paolino Corleoni. La storia di oggi era la storia di Emilio e parlava in qualche modo di sci, quella di domani la storia di Marco e parla di racconti di guerra. In piena notte decine di aerei scaricarono su Milano centinaia di bombe. I miei nonni aiutarono a raggruppare le famiglie per cercare di uscire dalla casa e trovare un posto sicuro. Mia nonna suggerì di andare lontano dalla ferrovia, verso i campi. Prese 2 dei 5 figli dei vicini e, chiamando Palma, corse fuori.